Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17.06, buonasera a tutti da Deborah Rosciani. Questa sera ci sono io a farvi compagnia con Focus Economia per raccontarvi i fatti economici della giornata. Giornata piuttosto intensa, anche se ieri erano tutti piuttosto tranquilli a casa per la festa del lavoro. Oggi invece ha ricominciato a marciare tutto quanto in maniera piuttosto intensa. Non è stata ieri una giornata di festa per il neo premier incaricato Enrico Letta, che come sapete è stato protagonista in questi giorni di questo tour europeo per presentarsi ai leader degli altri paesi, naturalmente, che già però conosceva, e soprattutto per individuare anche qualche linea d'azione condivisa per chiedere all'Europa di essere un po' meno stringenti in termini appunto del rigore chiesto a tutte le economie dell'Eurozona. Questo tour si è concluso questa mattina con l'incontro col Presidente della Commissione Europea Barroso, ma oggi sul fronte europeo è stata una giornata da più versanti ricca di notizie. La prima, la più importante, l'avete sentita anche in apertura del nostro giornale radio, noi ne parleremo diffusamente. A Focus Economia, la Banca Centrale Europea, dopo 10 mesi di status quo, ha deciso per una nuova riduzione dei tassi di interesse in Europa e sono stati portati i tassi al minimo storico dall'introduzione dell'euro, dall'inizio dell'avventura dell'euro, allo 0,5%. Mario Draghi ha detto che bisogna fare qualcosa ancora per far riprendere appunto l'economia in una marcia, in una direzione di crescita, ma ha espresso anche tante preoccupazioni, ne parleremo appunto nel corso della trasmissione. Ha detto anche una cosa molto interessante, Draghi ha detto: siamo proprio frustrati a Francoforte, anche se poi questa riunione di oggi si è svolta a Bratislava, per come sta andando l'economia e per l'impatto che questa situazione economica ha sul mercato del lavoro. Poi vi faremo sentire i passaggi più importanti della sua conferenza stampa che si è tenuta come sempre nel primo pomeriggio. Il rapporto sull'Italia dell'OCSE presentato oggi a Roma, sentiremo più tardi il capo economista di questa organizzazione, lo ospitiamo anche spesso a Focus Economia, Piercarlo Padoan. Cosa ha detto l'OCSE? Intanto ha detto: attenzione Italia, l'IMU, la sua cancellazione, non è una priorità, la cosa più importante è che questo paese possa ripartire aiutando le aziende attraverso una diminuzione delle tasse sul lavoro, e la priorità per l'Italia è la riduzione ampia e prolungata del debito pubblico. L'OCSE ha anche rivisto di nuovo a ribasso le stime di crescita, anzi di decrescita dell'Europa. Il PIL italiano scenderà quest'anno di 1,5 punti, non più solo di 1 punto, come aveva detto nella stima precedente. Il calo delle tasse in questo scenario, ha detto l'OCSE, è da considerarsi, almeno per ora, irrealizzabile. Poi vi faremo sentire tanti altri passaggi, anche del segretario generale Angel Gurria, appunto, che ha partecipato oggi a questa presentazione, l'ha fatta lui ufficialmente. E ci sono anche delle dichiarazioni del nuovo ministro dell'economia, Saccomanni, e tanti altri punti di vista intorno a questa ricerca, intorno a questo rapporto. Parleremo naturalmente anche di borsa oggi, come facciamo sempre a Focus. Questa giornata è stata piuttosto incerta da questa mattina, adesso il divario fra alcune borse si è andato ulteriormente allargando. È stata positiva da questa mattina a Francoforte, continua ad esserlo il rialzo del DAX tedesco, è di 0,5 punti percentuale. Parigi è sulla parità, Londra leggermente positiva, Milano perde 0,5 punto, è arrivata a perdere quasi 0,5 punti percentuale. Stamattina è stata più indefinita la seduta, tutti in attesa della BCE, poi in concomitanza con l'annuncio sui tassi, per la verità, che il mercato aspettava quasi interamente, almeno in questa misura, anche se qualcuno addirittura ipotizzava appunto un taglio ancora più coraggioso di 0,5 punti percentuale. Beh, in concomitanza del taglio e delle parole di Mario Draghi c'è stata una discesa di nuovo per tutte le borse europee, che adesso invece sul finale vedo che stanno di nuovo un po' recuperando. Cosa dice invece il mercato obbligazionario oggi? Lo spread fra BTP e si era svegliato con le migliori intenzioni, è arrivato a 263 punti base, portando il BTP decennale in termini di rendimento al nuovo minimo da ottobre 2010, al 3,84%. Poi sempre appunto durante la conferenza stampa del numero uno della BCE, Il divario tra Italia e Germania sul titolo decennale appunto è ritornato sopra i 270 punti base, quindi insomma sempre grande sensibilità ancora del mercato obbligazionario. Peraltro questo è un aspetto che ha toccato anche l'OCSE oggi, anzi l'ha toccato forse Mario Draghi nel corso del suo intervento. Questo è un paese che è ancora molto suscettibile appunto agli umori del mercato. Vabbè, non è che scopriamo l'acqua calda, l'abbiamo vista a nostre spese negli ultimi mesi più volte. Insomma, questi un po' in sintesi i temi dei quali parleremo. Ah, non ve ne ho ricordato uno molto importante. Vi ricordate l'intervista di 2 giorni fa rilasciata a Sebastiano Barisoni da parte dell'ex ministro del welfare Elsa Fornero? Alcune sue dichiarazioni hanno innervosito un po' qualcuno, in particolar modo gli esodati, chiaramente, non solo le sue parole rilasciate venerdì, ma in tutta la gestione della vicenda esodati, sulla quale è stata di nuovo appunto riportata la Fornero nell'intervista a Sebastiano Barisoni 2 giorni fa, come vi ho appena ricordato. Allora, che cosa è successo? Che dopo le sue dichiarazioni la Fornero ha detto: in questo momento, dopo i 3 provvedimenti che hanno salvaguardato questa platea di lavoratori appunto usciti dal mercato del lavoro ma non ancora con i requisiti per andare in pensione, ha detto appunto la Fornero 2 giorni fa: non c'è adesso l'emergenza esodati, e qua sono balzati sulla sedia invece tutti quei lavoratori che sono ancora in queste condizioni. Ci hanno scritto una lettera molto dura e noi vi faremo sentire appunto il portavoce di questo gruppo delle reti dei lavoratori. Le reti, si chiama questa organizzazione la rete dei comitati di esodati, e sentiremo un po' intanto su che cosa non ci stanno rispetto alle dichiarazioni del ministro, che ormai non ha più questo incarico, del welfare Fornero. Adesso la patata bollente passa in mano al nuovo presidente, al nuovo ministro Giovannini. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Se vorrete commentare con noi i fatti del giorno, andiamo alle notizie in breve. Allora, eccole qua le materie prime già subito invocate da parte dei nostri ascoltatori. Oggi l'oro, perlomeno stamattina sui mercati asiatici, quotava 1448,9 dollari l'oncia, mentre il petrolio a New York, rispetto alle tendenze recenti, ha aperto leggermente in rialzo a 91,42 dollari al barile. Allora, la Banca Centrale Europea ha tagliato il tasso di interesse dello 0,50% dallo 0,75% fissato precedentemente, raggiungendo un nuovo minimo record. Per quello che riguarda invece l'OCSE, cosa ha detto oggi? Intanto comincio a sintetizzarvi un po' i passaggi centrali di questo rapporto sull'Italia. Il rapporto intanto ha tagliato le stime di crescita del PIL meno 1,5% per il 2013. Il ritorno alla crescita per l'Italia non è previsto prima del 2014, quando il PIL crescerà di appena 0,5 punti percentuali. Cos'altro dice l'OCSE sull'Italia? L'Italia ha avviato un ambizioso programma di riforme che, insieme alle misure intraprese dall'Eurozona, hanno ridotto i rischi di rallentamento economico e potrebbero aiutarla a uscire dalla recessione già nel corso di quest'anno. Le vedo un po', magari poi chiederemo a Padoan questa affermazione che va un po' in conflitto rispetto a quella precedente, aiutarla ad uscire dalla recessione nel 2013, quando dice che invece il PIL crescerà più del previsto, meno 1,5%. Allora vedremo un po' come si mettono insieme queste due indicazioni. Però il taglio del debito resta la priorità per l'Italia. Se il deficit italiano rimarrà sopra il 3%, sarà sopra il 3%, qualcosa bisognerà fare. È fondamentale uscire dalla procedura di infrazione per l'Italia. Ancora, in Italia è impossibile per il momento ridurre in modo significativo il livello complessivo dell'imposizione fiscale, ma l'eliminazione delle agevolazioni fiscali senza giustificazioni economiche permetterebbe di aumentare la base imponibile e quindi ritoccare le aliquote marginali senza impatto sulle entrate. E ancora, se le priorità sono crescita e occupazione, la prima cosa da tagliare sono le tasse sul lavoro, ha detto il capo economista Piercarlo Padoan in conferenza stampa oggi. Ridurre le tasse sul lavoro è più importante che ridurre l'IMU. Ci sembrano davvero dei punti di agenda economica da consegnare al governo. Questo chiederemo poi a Padoan se ha avuto veramente questa intenzione. Un monito anche alle banche: sebbene il sistema bancario si sia rivelato complessivamente solido, diversi istituti di credito hanno incontrato gravi difficoltà e il settore finanziario resta esposto a rischi sistemici. L'OCSE ha consigliato quindi al nostro paese di incoraggiare le banche ad aumentare gli accantonamenti per perdite, così ci scordiamo proprio che denaro delle banche venga trasferito all'economia reale, e continuare ad incitarle a soddisfare le loro esigenze di capitale tramite le emissioni di nuove azioni o la cessione di attività non strategiche. Questo lo ha detto un po' anche oggi la Banca Centrale Europea, che ha invitato il sistema bancario a continuare a rafforzare i propri requisiti di capitale, ma io mi chiedo se continuando a dare queste indicazioni le banche possano riprendere a ridare appunto soldi al sistema, alle imprese e ai consumatori. E il governo che dice? Il governo è impegnato in una corsa contro il tempo, lo ha detto proprio Enrico Letta. Oggi, in tutti i suoi tantissimi impegni di giornata, ha avuto anche il tempo di parlare al CNEL. Di perso ne abbiamo di tempo, ne abbiamo perso parecchio e gli altri non aspettano. Sentiamo questo suo passaggio. Corsa contro il tempo per tanti motivi. Il primo, perché di tempo se ne è perso parecchio in queste ultime settimane, e gli altri non aspettano, gli altri corrono. In secondo luogo, corsa contro il tempo perché davanti a noi ci sono delle scelte molto complesse, molto faticose da fare, e dobbiamo farle con determinazione. Corsa contro il tempo perché a livello internazionale, a livello europeo, arrivano degli appuntamenti rispetto ai quali dobbiamo essere in grado di ottenere risultati in modo molto significativo. Non c'è tempo nemmeno in Europa. Il vertice di giugno in Europa deve essere un vertice nel quale i segnali concreti di lotta al disagio sociale, di politiche per far ripartire la crescita, e in queste ore ho concentrato la nostra attenzione e il peso che l'Italia può mettere in particolare su un tema che fa parte del rapporto che qui è stato discusso oggi. Questo tema è quello della lotta alla disoccupazione giovanile, che se dovessi individuare una scala di priorità rappresenta di gran lunga la prima delle priorità. Allora, mentre l'Ocse da una parte oggi diceva all'Italia non ci sono le condizioni per ridurre la pressione fiscale, bisognerebbe diminuire le tasse sul lavoro, sì, ma per esempio l'IMU non è una priorità, Letta nella conferenza stampa che a Palazzo Chigi ha tenuto con il segretario generale dell'Ocse Gurria ha detto: l'Italia ha una pressione fiscale insostenibile, assolutamente insostenibile a tutto tondo, per cui in prospettiva la pressione deve scendere senza rilassamento fiscale. E poi ha spiegato anche quale è stato il suo obiettivo di questo tour a Bruxelles, Berlino e Parigi. Bruxelles questa mattina, Parigi ieri, Berlino due giorni fa. Letta ha detto che ha cercato di capire i margini di manovra, ha anche ribadito il premier incaricato la necessità di recuperare il tempo perduto dopo le elezioni prima di formare il governo, e ora di recuperare il tempo perduto ha spiegato, per questo ribadendo anche il concetto che abbiamo fatto ascoltare in uno stralcio del suo intervento, per questo cercato di incontrare in poche ore il maggior numero di persone per cercare di capire i margini di manovra che abbiamo. Tutta questa giornata non sono mancate chiaramente anche le prese di posizione del neo ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, che ha commentato intanto il rapporto dell'Ocse sull'Italia. Le stime dell'Ocse, quelle che indicano in questa ulteriore discesa del PIL per quest'anno, che potrebbe arrivare ad un calo dell'1,5%, Saccomanni ha detto che queste stime non tengono conto dell'impatto del decreto per la restituzione dei debiti della pubblica amministrazione, che ci sarà già nel 2013 e nel 2014. Chiaramente il decreto, essendo recente, ha detto Saccomanni, non ha dato l'opportunità all'organizzazione di considerarlo. La procedura per deficit nel nostro paese potrebbe essere chiusa entro fine maggio, e questo sarebbe un importante riconoscimento delle cose fatte dall'Italia e un segnale ai mercati. L'uscita dalla procedura per deficit eccessivo potrebbe consentire all'Italia di liberare risorse per 12 miliardi di euro, e infine superata la fase dell'incertezza, ha detto il ministro dell'economia, ora si apre una fase nuova. Sentiamolo. Le condizioni di incertezza in cui l'economia italiana si è trovata per motivi diciamo di carattere istituzionale, politico, in questi ultimi mesi, adesso è superata. Abbiamo una nuova fase, c'è un governo che ha ottenuto la fiducia del Parlamento, ma io credo che sarà questo un elemento importante, diciamo, per stemperare il senso di sfiducia e di come dire, paralisi reciproca che ha bloccato e reso forse acuta in queste ultime settimane il senso di crisi del Paese. Siamo, diciamo, orientati ad un rilancio della crescita economica e sostenibile e proseguiamo con fermezza sulla strada delle riforme strutturali che sono state già iniziate. Come è stato ricordato anche dal Presidente Monti e dal Segretario Gurria, queste riforme hanno anche un effetto di sostegno alla crescita. E oggi, in tutta questa giornata così ricca di eventi, un neo ministro incaricato che è andato in tutte le città d'Europa per convincere della bontà degli sforzi che farà questo nuovo governo per rispettare gli impegni presi in campagna elettorale, quindi con gli elettori e con gli italiani, ma anche gli impegni che sono stati presi da molto tempo prima con l'Europa, c'è anche qualche burlone che ha fatto questo scherzo al ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, praticamente predisponendo un account su Twitter da cui aveva fatto partire questa notizia. Pensate che cattivo gusto, dalla BCE avrebbe recitato questo Twitter, che appunto era riconducibile al ministro Saccomanni: dalla BCE riceviamo notizia che il presidente Draghi è morto per ictus a Bratislava alle 12 circa. Una situazione che ha obbligato il ministro dell'economia a divulgare un comunicato pubblico in cui diceva di non disporre di alcun account Twitter, e quindi tutte le presunte notizie che fanno riferimento a questo tweet sono destituite di ogni fondamento. Vabbè, c'è chi davvero si diverte con poco. Un altro dato, prima delle notizie, quelle che aspettate sempre ogni giorno con grande ansia, che vi recita Sebastiano Barisoni, quelle che accompagniamo con Non te reggo più di Rino Gaetano. Un'ultima notizia riguarda, dicevamo, i prezzi alla produzione dei prodotti industriali, che a marzo restano fermi su febbraio e scendono addirittura dello 0,1% su base annua. Il ribasso tendenziale dei prezzi segna quella che in termini tecnici è definita deflazione, la prima da dicembre 2009. Questo ribasso si deve soprattutto al settore energetico. La fabbricazione di coke, prodotti petroliferi raffinati, segna la diminuzione annua più forte, meno 5,8% per il mercato interno e meno 5,6% per quello esterno. Se accompagniamo questo dato al dato sull'inflazione, che abbiamo commentato ampiamente appunto martedì scorso, un tracollo dell'inflazione su base mensile dal lunedì 6 di marzo al lunedì 2 di aprile, ecco qua che già qualcuno sta parlando di un paese che comincia ad essere in preda ad una pericolosa inflazione, a un'operosa appunto spirale giapponese, quindi deflazione. Avremo modo nei prossimi mesi di verificare se questa tendenza si manterrà o meno. Adesso le notizie che invece vi fanno arrabbiare. Abbassare, non te regge più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli. Allora, la prima non fa tanto arrabbiare, arriva da oltreoceano, però è carina, è divertente, è originale, chissà che non venga in mente anche a qualche azienda italiana di praticarla qua. Allora, il 15% di aumento di stipendio se ti fai un tatuaggio con il logo della ditta. Allora, queste pratiche le conosciamo perché magari qualche libero professionista si fa mettere il logo della propria società, per esempio sull'auto, qualche rappresentante. Io ho una mia amica che fa l'agente immobiliare, che ha tranquillamente il logo della società che rappresenta, per la quale lavora, appunto in macchina. Qua invece andiamo oltre, ci facciamo tatuare il logo della ditta sulla pelle. Questa sarebbe la proposta che Anthony Lolly, chissà che origine ha, fondatore e proprietario di un'agenzia immobiliare di Brooklyn, ha fatto ai suoi circa 1100 dipendenti. Al momento sembra che solo 40 persone abbiano accettato l'idea di farsi un tatuaggio aziendalista composto da una scritta e una sigla, ma chissà che in tempi di crisi, pur di arrotondare lo stipendio, altri dipendenti seguono il loro esempio e accettino la proposta. Il tema è che magari uno se lo fa fare anche, ma dove se lo fa fare? In fronte? Su una mano? Su un braccio? Quindi è chiaro che l'obiettivo è rendere visibile questa pubblicità, per cui magari il 15% di aumento di stipendio, signor Lolly, secondo me è anche poco per quello che lei chiede. Andiamo invece da da Brooklyn a Genova. Allora, sarà che torniamo a noi, perché anche noi, come al solito, le notizie pittoresche non ce le facciamo mancare, sarà che i genovesi nella gestione del denaro ci sanno proprio fare, così anche in chiesa, quando si è trattato di rimboccarsi le maniche e recuperare offerte in tempo di crisi, è stata la diocesi del capoluogo ligure a fare scuola. Guardi, questo è un esempio dei bussolotti che posizioniamo nelle chiese per la campagna Un euro al mese, ha spiegato Francesco Bellando, direttore dell'ufficio Sovvenire di Genova, indicando con orgoglio di chi ha avuto l'intuizione giusta la colonnina scura con la moneta da un euro disegnata sopra. Li abbiamo inventati noi e ora si stanno diffondendo in tutta Italia. Questo ufficio Sovvenire si occupa di incentivare gli aiuti alla Chiesa sotto forma di 8 per 1000 o di offerte per il clero, ed è per queste ultime che è nato il bussolotto. Il presupposto di questa invenzione è semplice: con la crisi economica, quella del lavoro, e con eventi come le alluvioni, la gente ha meno risorse da destinare alla carità. Ormai i cali delle donazioni sono diventati praticamente fisiologici, quindi è inutile attendersi, dicono da Genova, le grandi offerte, ed è sulle piccole donazioni che bisogna puntare, come un euro al mese appunto. E i loro euro nelle colonnine le famiglie genovesi li hanno messi dal 2006, quando si iniziò con le prime 10 parrocchie. Il fenomeno dei bussolotti è cresciuto fino a coprire il 55% delle chiese della diocesi. In 6 anni il contributo per il sostentamento il credo nella diocesi è passato da 50.000 a 80.000 euro al mese, e la voce più alta è quella della campagna, non al mese scusate, da 50.000 a 84.000 euro, la voce più alta è quella della campagna, proprio un euro al mese. No, segnalo all'amico che ci scrive: l'auto della tua amica è aziendale, non privata. Le assicuro che è privata l'auto della mia amica e ha accettato appunto di farsi tatuare sullo sportello appunto il logo della società immobiliare per la quale lavora. Per cui, siccome è una mia amica da 25 anni, so benissimo qual è la sua auto. Andiamo all'ultima notizia di quelle free free, come le chiamo io. Ah, questa è bella, perché l'inciuccione all'assemblea regionale è andato in scena in piena notte. Dove è successo? È successo in Sicilia, dove solo verso le 3 del 1 maggio, stanotte, l'altra notte anzi, quindi tra il 30 e il 1, agli uffici della presidenza è arrivato il testo definitivo della famigerata tabella H, il lungo elenco di enti e associazioni, partorito dopo lunghe ed estenuanti trattative fra deputati impegnati per ore a correggere bozze e a modificare cifre, che hanno ottenuto contributi nell'ambito della manovra finanziaria. Allora, i beneficiari di questi contributi sono complessivamente 137 tra enti e soggetti. Soldi a pioggia distribuiti ad una platea bene identificabile con i singoli parlamentari, ognuno dei quali chiaramente si è battuto per l'ente a lui vicino. Chissà che bacino di elettori che c'è qua. Solo i 5 Stelle e il gruppo di Nello Musumeci hanno votato contro, senza però fare grosse polemiche o frapporre ostacoli come l'ostruzionismo, che avrebbero comunque solo avuto l'effetto di prolungare i lavori, che si sono conclusi poco prima delle 7 di ieri mattina. Allora, dentro l'elenco c'è un po' di tutto: associazioni conosciute che svolgono attività meritevoli e altre molto poco note. Nulla ha potuto il governatore Rosario Crocetta, che ha cercato fino all'ultimo di far passare un nuovo metodo per l'assegnazione di queste risorse. Vi leggo solamente alcune cifre stanziate a favore di chi. 5.000 euro all'associazione Loco per la conservazione dei giocattoli antichi, 10.000 euro all'associazione Faro di Pace di Canicattì, 29.000 euro alle varie associazioni che si occupano di mutilati, invalidi civili, eccetera, 18.000 euro al Servizio Telefonico Nazionale, e questa sarebbe veramente da chiarire tutta, 45.000 euro all'Unione Siciliana Emigrati e Famiglie, 22.000 euro al Centro Siciliano di Fisica Nucleare, 31.000 euro all'Istituto per la Dottrina e l'Informazione Sociale IDIS Online, 35.000 euro all'Avis di Aliterme, al Club Mediterraneo delle Ustioni 62.000 euro, 38.000 euro per la realizzazione del presepe vivente al comune di Custonaci e tante altre ancora. Questo è quanto è successo l'altra notte in Sicilia. Based on our regular economic and monetary analysis. Sulla base delle analisi economiche e monetarie, il Consiglio direttivo ha deciso di abbassare i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli allo 0,50%. Questa decisione è in linea con le contenute pressioni sui prezzi nel medio termine. Le attese circa l'inflazione per l'area euro, nel medio termine, restano saldamente ancorate e in linea con il nostro obiettivo di mantenerla al di sotto o vicina al 2%. Il taglio dei tassi di interesse dovrebbe sostenere la ripresa più in là nel corso dell'anno. Alla luce di questo contesto, la nostra politica monetaria resterà accomodante per tutto il tempo necessario. Nei prossimi mesi monitoreremo da vicino tutte le informazioni disponibili circa gli sviluppi economici e monetari e l'eventuale impatto sulla stabilità dei prezzi. Circa il taglio dei tassi, c'è stata una forte maggioranza favorevole a una riduzione dei tassi e in questa una forte maggioranza favorevole a una riduzione di 25 punti base. Avrete riconosciuto la voce, non quella di Mario Nutarelli che spiccherava la nostra scheda, ma quella di Mario Draghi, numero uno della Banca Centrale Europea, che oggi appunto in questi termini ha spiegato la decisione della BCE di tagliare i tassi di interesse allo 0,5% in Europa. Siamo a livelli minimi storici. I tassi nel mondo, siamo allo 0,10% in Giappone, allo 0,25% negli Stati Uniti, a mezzo punto percentuale in Gran Bretagna, un punto in Canada. Vi ho dato un po' un quadro della situazione. Oggi, ha detto Draghi, c'è stata una forte maggioranza per prendere questa decisione, ma chissà che qualcuno non volesse un taglio più audace, più coraggioso. Alessandro Merli, inviato per il Sole 24 Ore al meeting di Bratislava. Ma la BCE a Roma non viene mai, Alessandro? In queste riunioni che fa periodicamente in città diverse da Francoforte, l'Italia non viene mai scelta? Ci sono dei turni, è stata già anche in Italia in passato, la prossima sarà a Parigi in ottobre, sono due all'anno le riunioni che si svolgono fuori da Francoforte, teoricamente per avvicinare l'unione monetaria ai cittadini dell'area euro. Per quello che riguarda la riunione di oggi, direi che la BCE ha riconosciuto che le sue previsioni sull'andamento dell'economia dell'area euro erano sbagliate, comprese quelle sull'inflazione, cioè l'economia sta andando molto peggio del previsto, l'inflazione è scesa molto più rapidamente di quello che la BCE si aspettasse anche solo uno o due mesi fa, e quindi si è arrivata a questa decisione di tagliare i tassi. E come abbiamo sentito, il Consiglio in pratica si è spaccato in tre, perché c'era qualcuno che i tassi non li voleva toccare affatto, c'è stata una maggioranza a favore di un taglio del 25 punti base, ma c'era anche qualcuno che pensava che sarebbe stato necessario tagliarne 50. E infatti anche la borsa, diciamo che negli ultimi giorni si era un po' mossa sulla scia di questa prospettiva, correndo un po' dietro a chi ipotizzava un taglio più forte, più coraggioso. Le decisioni che abbiamo preso oggi sono state prese per il rilancio anche del credito. Garantiremo fino alla metà del 2014 le aste con cui la BCE fornisce liquidità illimitata a scadenza trimestrale. E poi, ha detto ancora Draghi, sono iniziate le consultazioni per il rilancio del credito affinché questa cinghia di trasmissione funzioni, ha fatto capire il numero uno della Banca Centrale Europea. E poi ancora, ai governi non devono allentare gli sforzi per il risanamento. Sentiamo anche questo passaggio di Mario Draghi. Il Consiglio direttivo ha deciso di iniziare una fase di consultazioni con altre istituzioni europee per sostenere il mercato dei titoli garantiti da prestiti emessi dalle banche, in un'operazione tesa a facilitare i prestiti a famiglie e imprese. Allo stesso tempo, è assolutamente fondamentale che i paesi della zona euro intensifichino gli sforzi per portare avanti le riforme strutturali a livello nazionale, poggiando sui progressi fatti sul fronte del risanamento dei conti. Inoltre, dovrebbero procedere con la ricapitalizzazione delle banche dove necessario. Infine, dovrebbero continuare sulla via di un'unione economica e monetaria e verso il veloce miglioramento dell'unione bancaria. Including the swift implementation of the banking union. Alessandro Merli, Mario Draghi l'aveva detto anche qualche altro giorno fa, proprio non riesce a capire come mai tutto questo allentamento monetario non si trasferisca all'economia reale. Adesso a quanto pare serve una task force di controllo rispetto a questa cinghia di trasmissione che non funziona. Questo è stato un altro messaggio, mi sembra più o meno chiaro. Sì, è stato chiaro, anche se non sono chiari i tempi in cui si interverrà, cioè è da un po' che la BCE ha riconosciuto questo problema, che lo sta studiando, però misure ancora non se ne vedono. La strada che ha indicato oggi Draghi, che era quella che era uscita già alle riunioni di Washington del Fondo Monetario, quando fecero una conferenza stampa congiunta lui e il commissario europeo Rehn, è quella di cercare di far ripartire le cartolarizzazioni in modo che si possano, diciamo, impacchettare i prestiti delle banche e rivenderli, alleggerire i bilanci delle banche, così potranno fare più impieghi alle imprese e alle famiglie. Però tecnicamente la soluzione di questo problema ancora non è vicinissima, e la BCE ha ripetuto oggi Draghi non è in grado di fornire una soluzione da sola, ma avrà bisogno di altre controparti. Una di queste sono i governi, un'altra importante sarà probabilmente la Banca Europea degli Investimenti o istituzioni analoghe come per esempio la Cassa dei Depositi e Prestiti in Italia, che potrebbero fornire o qualche forma di garanzia o addirittura intervenire direttamente. Certo. Alessandro, riferimenti espliciti all'Italia ne sono stati fatti oggi nel corso della conferenza stampa di Draghi. Qualche giorno fa un'agenzia di rating molto importante aveva detto: non è ancora escluso che l'Italia non debba far ricorso agli aiuti della BCE, però mi sembra che oggi tutto sommato l'Italia specifica nei discorsi di Draghi sia rimasta fuori, a meno che non ci siamo persi appunto qualche indicazione precisa. No, è rimasta fuori. Draghi anzi accuratamente ha evitato, credo, di intervenire su questo tema, nessuno per la verità gliel'ha chiesto, non c'è stato modo di fare domande da parte della stampa italiana. E di solito in queste fasi di passaggio delicate, come in questo caso il cambio di governo, Draghi cerca di evitare di essere tirato per la giacca nelle questioni italiane, anche perché poi da una parte e dall'altra vengono sempre interpretate le sue parole a favore del governo e contro il governo, e quindi lui evita accuratamente di fare questo tipo di interventi. Però è chiarissimo che ha molto ben presente quali sono i problemi dell'economia italiana, ha fatto per esempio più volte riferimento alla necessità di riforme strutturali, non parlando direttamente dell'Italia, ma più in generale delle questioni europee. L'altra cosa credo interessante, e credo che questo si possa veramente riferire all'Italia, è che ha detto che nei casi di emergenza, nelle situazioni di emergenza come quelle degli anni passati, i governi hanno cercato di sistemare i bilanci con gli aumenti delle tasse, perché in fondo quello è il sistema più immediato e forse più facile. Adesso c'è più tempo, bisogna procedere a una riduzione della spesa pubblica che consenta poi successivamente anche di ridurre le tasse, che sono troppo alte in tutta Europa. Mi sembra che sia lo stesso messaggio che viene anche dall'OCSE, esatto, dalla presentazione del rapporto di OCSE. Abbiamo Padoan tra poco, però vorrei farvi sentire questo passaggio di Mario Draghi. Fiscal consolidation is contractionary in the short term. Il risanamento dei conti pubblici provoca una contrazione della crescita nel breve e medio termine. Quindi occorre limitare questo effetto prendendo delle misure precise. Cosa si deve fare allora? Innanzitutto è meglio consolidare i conti pubblici, riducendo la spesa corrente invece che aumentando le tasse. Purtroppo molti consolidamenti di bilancio sono avvenuti in una situazione d'emergenza. E visto che si era in emergenza, molti paesi hanno scelto la via più semplice, ossia quella di aumentare le tasse. Stiamo però parlando di un aumento delle tasse in un'area del mondo dove le tasse erano già molto alte. Quindi non c'è da stupirsi che ci sia stata una contrazione. Ora che c'è più tempo a disposizione, si può arrivare a un equilibrio della situazione con un taglio della spesa corrente e un abbassamento delle tasse. This could be rebalanced into un ultimo commento, Alessandro, e sì, vado sopra a Mario Draghi, non lo faccio terminare perché in realtà tra un po' dobbiamo andare ai suggerimenti per chi è in viaggio. Un ascoltatore segnala, ha detto solamente only 0,25. Questo lascia presagire, secondo te, al fatto che lui fosse della corrente per un taglio più drastico dei tassi di interesse, o che comunque potrebbe esserci addirittura già quest'anno un'altra manovra di riduzione, perché se c'è stata questa importante apertura oggi non non è detto, siccome l'OCSE anche dice che il PIL italiano scenderà molto più del previsto, non è che le altre economie dell'Eurozona, a parte la Germania, che pure ha le sue difficoltà, vadano molto meglio. Secondo te non è finita qua? Dunque, sapere esattamente in quale dei tre campi sta Draghi al momento è impossibile, dato anche che la riunione è appena finita. Può darsi che nei giorni prossimi qualcosa trapeli, anche se, come sapete, Draghi è un personaggio di estrema riservatezza. Sì. Quanto alla possibilità di ulteriori tagli, Draghi non l'ha detto nella dichiarazione iniziale, però lo ha ripetuto più volte nel domanda e risposta successivo, che la BCE continuerà a monitorare i dati economici nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ed è pronta ad agire. È esattamente la stessa formula che aveva usato nelle scorse settimane e che poi ha aperto la strada al taglio di oggi. Quindi questa possibilità esiste, condizionata però al fatto che ci sia probabilmente un ulteriore peggioramento della situazione economica o un ulteriore calo dell'inflazione. È certo, un ulteriore calo dell'inflazione che addirittura sta, secondo qualche osservatore, marciando dritta verso una, come dire, condizione giapponese. Pensi che Draghi ipotizzi anche una evoluzione economica europea di questo tipo? Credo che la BCE sappia che è una cosa da evitare a tutti i costi, perché una volta che si entra in uno stato di deflazione, il caso del Giappone ce lo dimostra, poi si fa una fatica enorme ad uscirne, se e quando ci si riesce. Il Giappone è in stagnazione da due decenni, quindi uno stato molto grave dell'economia giapponese. Quindi credo che prima di arrivare a questa situazione la BCE cercherà di mettere in campo tutte le armi a sua disposizione, anche se, appunto, abbiamo visto non è compatta al suo interno. Alessandro, grazie per essere stato con noi, buona serata. Buon rientro a Francoforte. Tra l'altro, non abbiamo completato anche il discorso relativamente all'attività delle banche centrali, perché ieri anche la Federal Reserve, la banca centrale americana, ha riunito il suo braccio operativo, il Federal Open Market Committee, che ha deciso di lasciare invariato il costo del denaro, già bassissimo, siamo fermi in questo corridoio tra lo 0 e lo 0,25%. La banca centrale americana ha confermato il suo programma di acquisti di asset ad un ritmo di 85 miliardi di dollari al mese, e però la Fed ha detto di essere pronta ad aumentare o diminuire la quantità degli acquisti a seconda dell'evoluzione del mercato del lavoro e del livello dell'inflazione. Tra l'altro, in tutto questo, la borsa americana come ha reagito ieri a questi, come sta reagendo oggi a tutte queste, a tutti questi movimenti? Il Dow Jones è positivo, più 0,7%. C'è uno scattino sul finale anche per le borse europee, sono tutte positive in questo momento, con l'unica eccezione di Milano, che invece chiude della seduta molto meno peggio di come stava andando, con un calo dello 0,12%. E come preannunciato nella prima parte, saluto subito, perché in questa giornata convulsa e piena di impegni per lui, ci ha dato chiaramente, già con grande gentilezza, qualche minuto di disponibilità del suo tempo. Buonasera a Piercarlo Padoan, capo economista dell'OCSE. Buonasera, professore. Buonasera. Ci a voi. Sente, eccoci qua. Allora, io vorrei chiederle subito se ci spiega quello che io ho identificato come un piccolo conflitto di comunicazione, ma magari non ho capito bene io, perché oggi l'OCSE, presentando con il vostro segretario generale Gurria a Roma il rapporto sull'Italia, appunto l'organizzazione ha detto: bene le riforme nel nostro paese. Il paese, l'Italia, forse riuscirà ad andare fuori dalla crisi nel 2013, e però contemporaneamente avete anche detto che rispetto al calo precedentemente individuato del PIL dell'1%, la contrazione italiana quest'anno sarà di 1,5%. È un conflitto che vedo solo io, professor Padoan? No, oppure, purtroppo, non è un conflitto. Il peggioramento delle stime di crescita del PIL in Italia, ma devo aggiungere anche in altri paesi, è la conseguenza del fatto che l'economia mondiale sta migliorando ad una velocità più bassa di quella che pensavamo fino a qualche mese fa. Gli ultimi dati usciti ci hanno indotto a rivedere al basso, purtroppo, le stime. Quindi la raccomandazione di politica economica, e cioè continuare nell'aggiustamento, perché manca poco per completarlo, e continuare le riforme strutturali, rimane, anzi a maggior ragione rimane, perché la situazione purtroppo è un po' peggiore di quello che speravamo, ma ripeto, essenzialmente perché l'economia globale va anch'essa un po' peggio di quello che speravamo. Però avete concesso anche un plauso alle iniziative italiane, all'ambizioso programma di riforme, come lo avete appunto definito oggi, insieme alle misure intraprese dall'Eurozona. In Italia, appunto, grazie a tutto questo, ha visto ridursi i rischi di rallentamento economico, e questo potrebbe aiutarla ad uscire dalla recessione già nel corso di quest'anno. Però, insomma, avete anche detto al nostro paese: non dimenticate le priorità, ridurre in maniera ampia e prolungata il debito pubblico, scordatevi di poter diminuire le tasse, ma non tutte, perché quelle sul lavoro invece, professor Padoan, vanno ridotte. Come potrebbe fare l'Italia? Dunque, innanzitutto è vero che i benefici dell'aggiustamento si vedono già in termini di calo di spread, e questo, vorrei ricordare, non è un fatto simbolico ma un fatto molto sostanzioso, perché significa un onere molto minore per le finanze pubbliche e quindi la possibilità eventuale di usare quelle risorse per altri scopi. È chiaro che un paese con un debito supera il 130% può permettersi di deviare dal suo cammino di aggiustamento, che ripeto però è molto ben avanzato e sta per dare i suoi frutti in termini di debito che comincerà a calare presto. Per quanto riguarda poi le tasse, vanno dette due cose. In generale, se non si trovano risorse per finanziare i tagli di tasse non si possono fare senza mettere a rischio la sostenibilità finanziaria. Detto questo, all'interno di un programma di taglio di tasse ci sono priorità. Se il Paese, come mi sembra giusto, si vuole concentrare sulla crescita del reddito e dell'occupazione, le prime tasse da tagliare quando c'è spazio sono quelle sul lavoro. E questa è la nostra raccomandazione, che si basa sia sull'analisi della situazione italiana sia sull'esperienza di moltissimi altri paesi in situazioni simili. Certo, poi lei dice, insomma, è una raccomandazione, poi è chiaro che il governo farà anche quello che vuole. Mi stavo chiedendo come faranno con l'IMU, se vogliono tenere a cuore le raccomandazioni dell'OCSE, visto che l'IMU è stato un preciso impegno anche in campagna elettorale, e anche per la formazione di questo nuovo governo è stato un ingrediente messo sul piatto da parte di una specifica forza politica, appunto, altrimenti non avrebbe dato il suo sostegno. Detto questo, lei, Gurria, l'OCSE nel suo complesso, oggi avete fatto appunto anche delle precise, avete formulato delle precise indicazioni complessivamente sul mercato del lavoro, adesso a prescindere dal fatto che bisogna diminuire appunto le tasse a carico delle imprese, avete anche detto che bisogna estendere l'accesso all'indennità di disoccupazione, quindi forse rimodulare anche il sistema degli ammortizzatori sociali in Italia. Era questo il messaggio più ampio, professor Padoan? È un messaggio più ampio, questo è un messaggio che naturalmente implica dei costi di bilancio che vanno, a cui copertura va individuata. Per quanto riguarda il problema del mercato del lavoro, nell'immediato riteniamo che sia opportuno identificare misure per facilitare l'ingresso sul mercato del lavoro dei più giovani. Questa è un'emergenza italiana, purtroppo non è solo italiana, ma bisogna immaginare una ridefinizione delle regole vigenti per poter facilitare questo obiettivo, che tra l'altro mi sembra in linea con l'obiettivo del governo espresso sia dal Presidente del Consiglio che dal Ministro del Lavoro. Un'ultima domanda, professor Padoan, poi la lascio. Il nodo delle banche, l'OCSE ha toccato anche questo. Le banche, dice l'organizzazione, hanno seriamente risentito della crisi, ricordo che l'hanno anche un po' causata nel 2006-2007, però voi dite vanno incoraggiate ad aumentare gli accantonamenti per perdite, vanno incoraggiate anche ad solidificarsi dal punto di vista del patrimonio. In tutto questo, mentre dall'altra parte a Bratislava, dove oggi si riuniva la Banca Centrale Europea, Mario Draghi diceva ancora: qua questa cinghia di trasmissione tra la politica monetaria e il sistema dell'economia reale non funziona. Se le banche sono chiamate ancora a rafforzare i requisiti patrimoniali, quando trasferiranno del denaro sul sistema reale, professor Padoan? E poi voi avete anche detto serve maggior concorrenza nel settore finanziario. Che cosa intendeva? Dunque, non c'è contraddizione fra il rafforzamento del capitale delle banche e la concessione di credito più intensa. Da questo punto di vista, le decisioni che ha preso la BCE oggi di facilitare il credito delle piccole imprese con strumenti innovativi è estremamente importante, perché questo è uno dei problemi chiave per rilanciare l'Eurozona, non solo l'Italia. Quindi non è solo un tasso di interesse più basso che viene proposto alla BCE, ma anche strumenti nuovi. Per quanto riguarda la questione della concorrenza del sistema finanziario italiano, intanto vorrei ricordare che il sistema finanziario italiano si deve rafforzare, ma è comparativamente più forte di quello di altri paesi dell'Eurozona, anche più importanti. In generale però la concorrenza significa poter permettere un maggiore accesso al credito anche a diciamo segmenti del settore produttivo che, vista la situazione di crisi, ne possono essere esclusi. Vedo adesso una presa di posizione del ministro Saccomanni che dice, ribadisce come priorità la chiusura, per quello che riguarda l'Italia, della procedura europea per deficit eccessiva. Su questo punto, dice il ministro dell'economia, professor Padoan, le stime OCSE non hanno molta rilevanza, non quanto almeno le stime che inducono la Commissione, che sono quelle della Banca Centrale Europea, ad orientarsi per la chiusura della procedura in modo positivo per l'Italia. Che risponde? Ma le stime necessarie, i numeri necessari per definire la chiusura del processo di deficit eccessivo, che mi auguro sia concluso presto, hanno a che fare con i risultati più che con le stime dell'OCSE, quindi io immagino che questo sia il senso dell'affermazione del dottor Saccomanni, del ministro Saccomanni. Ancora buonasera da Deborah Rosciani, eccoci ritrovati insieme per la seconda ed ultima parte di Focus Economia. Ero un po' confusa con questa nuova colonna sonora che accompagna la borsa, perché adesso è tempo di raccontarvi anche quello che è successo oggi a Piazza Affari e dintorni. Livia Zancaner, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, uno scattino d'orgoglio sul finale per Milano, che stamattina aveva aperto negativa, se non mi ricordo male, rispetto alle altre piazze europee, poi è peggiorata proprio contestualmente alla dichiarazione di Mario Draghi nel corso della conferenza stampa che segue la decisione sui tassi di interesse, poi proprio negli ultimi minuti, direi che nell'ultima mezz'ora, ci ha riprovato a risalire la china e la seduta viene archiviata con un calo dello 0,12%. Mentre sono positive le altre piazze europee, anche Wall Street è positiva sul Dow Jones, è più 0,7%. È riconducibile a qualche fatto specifico questo miglioramento sul finale, Livia? Allora, diciamo che sicuramente al miglioramento di Milano sul finale ha contribuito Wall Street, dove al momento il Dow Jones guadagna lo 0,77%. Ricordiamo che oggi i dati arrivati dagli Stati Uniti sono stati positivi, in particolare le richieste di sussidi di disoccupazione sono scese ai minimi da 5 anni, il deficit commerciale è risultato migliore delle attese, e domani vi è anche l'attesa per i dati ufficiali del mercato del lavoro americano di aprile. Bisogna anche sottolineare che il FTSE MIB in 9 sedute, quindi dalla chiusura del 17 aprile, ha guadagnato il 9%, quindi il calo di oggi, successivo alle parole del governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi, potrebbe essere comunque considerato un calo fisiologico. Una vendita sulla notizia, diciamo, il mercato era cresciuto anche sulla prospettiva di una riduzione dei tassi di interesse. Quando la riduzione è arrivata, appunto, il mercato vende, come fa anche rispetto ad altri fatti specifici. A2A, miglior titolo della giornata, più 5,70%. Cos'è successo? Allora, il mercato scommette sui conti del primo trimestre che verranno approvati il 7 maggio. Le stime sono positive e ricordiamo anche che la società ha già guadagnato il 51% circa dalla metà di marzo, quando ha pubblicato i conti dell'intero 2012, che erano già stati apprezzati dagli analisti, poiché avevano mostrato un ritorno all'utile, un calo oltre le attese dell'indebitamento, quindi vi sono anche attese positive per il primo trimestre. Media 7+4 28%, qua il biscione corre, non perché gli ascolti di trasmissioni particolari vanno particolarmente bene, né neanche per la raccolta pubblicitaria, perché anche quella non è che sia proprio in uno stato di massima salute, ma qua è proprio, come dire, politico il motivo di questo movimento al rialzo, Livia. Sì, assolutamente sì, infatti già lunedì e martedì il titolo ha guadagnato oltre il 5%. 1%, il 29 aprile ricordiamo che si è insediato il nuovo governo italiano, che prevede un asse PD-PDL, e per questo gli operatori non si aspettano particolari scossoni sul fronte del mercato televisivo né provvedimenti che possano penalizzare il gruppo Mediaset. Azimut, terzo miglior titolo della giornata, più 2,12%, Fondiaria più 1,87%, la Galassia Fiat oggi mi sembra sia andata su strade separate, bene Exor, male le altre due. Sì, allora diciamo che Fiat Industrial ha perso l'1,5%, pesano i giudizi degli analisti dopo i conti e soprattutto dopo la revisione dei target del 2013. Notiamo invece che Fiat, che è stata negativa per quasi tutta la seduta, ha guadagnato poi lo 0,5%, proprio in questi minuti stanno uscendo i dati sulle immatricolazioni del mercato italiano e il titolo quindi ha chiuso poi in positivo dopo una giornata sostanzialmente negativa. Non li vedo ancora, poi li commenteremo con un nostro esperto. Intanto andiamo a vedere gli altri titoli che si sono mossi in maniera più forte rispetto agli altri. STM più 1,67%. Sì, ST ha beneficiato dei conti della concorrente Infineon, che ha mostrato risultati nel secondo trimestre superiori alle attese e ha migliorato le stime sull'intero esercizio. Le vendite quindi sono salite dell'8% per la società tedesca e i profitti operativi del 55%. Per questo motivo quindi ci si aspetta quindi un recupero del settore e un andamento positivo anche per ST. Un'altra tiratina d'orecchie alle banche è arrivata da Mario Draghi, che in particolar modo ha indicato loro di continuare nella politica di rafforzamento del capitale. Ne hanno risentito di queste indicazioni che oggi sono arrivate da Bratislava, Livia? Sì, diciamo che le banche oggi si sono mosse in controtendenza, hanno chiuso in positivo la Popolare dell'Emilia Romagna e la Popolare di Milano, mentre le altre hanno chiuso in negativo, penalizzate anche dalle stime del Credit Suisse, che ha tagliato in media del 35% le stime sull'utile per azione delle nostre banche, quindi delle banche italiane, per il triennio 2013-2015, aspettandosi in particolare maggiori pressioni sui margini di interesse, un aumento degli accantonamenti per perdite su crediti. Quindi diciamo che sostanzialmente il settore si è mosso a due velocità oggi a Milano. I titoli che sono andati invece nella maniera peggiore in assoluto: Tenaris meno 4% e Buzzi Unicem meno 3,45%. Comunque sono giornate di orientamento da parte degli investitori intorno alla società che hanno rassegnato i conti o che stanno per farlo. Sì, assolutamente sì, infatti per Tenaris sono stati pubblicati i conti del primo trimestre, che sono stati considerati comunque deludenti da parte degli analisti, e dall'altra parte sono state ritenute deboli anche le previsioni sui ricavi e i margini per il 2013. Ricordiamo che Tenaris ha mostrato un utile in calo del 6% nel primo trimestre. Per quanto riguarda Buzzi Unicem, oggi il settore è andato male, sono andate male anche le concorrenti francesi e tedesche, e il mercato quindi si interroga sui conti che verranno pubblicati il 10 maggio, e ricordiamo in questo caso che i conti 2012 avevano deluso il mercato e quindi gli analisti sono in attesa. Di Fiat Industrial l'abbiamo già detto, gli altri cali più consistenti: quello di Luxottica meno 1,42%, Banco Popolare meno 1,37%, Monte dei Paschi meno 1,12%, Parmalat meno 1,11%, Ansaldo meno 0,9%. Due notizie da raccontare relativamente invece alla seduta di Impregilo, Livia. Sì, Impregilo guadagnava di più stamattina, poi ha chiuso con un rialzo del 2% circa. Nell'assemblea di due giorni fa la società, come era nelle attese peraltro, ha ufficializzato la decisione di non effettuare il delisting, cioè di non togliere il titolo dalla borsa. Si è conclusa, ricordiamo, l'offerta pubblica di acquisto lanciata dall'azionista Salini, che ora è salito oltre il 92% della società, e ricordiamo che quindi poi l'azionista, per la sua cioè la società quotata in borsa dovrà scendere sotto il 90% per mantenere una quota del capitale sul mercato. Livia, grazie per essere stata con noi, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Salutiamo Livia Zancaner, collega di Radio Cori Il Sole 24 Ore, con la quale abbiamo raccontato la seduta di borsa. Adesso andiamo ad un altro tema che è molto caldo da più di un anno a questa parte, e a riscaldarlo ulteriormente hanno contribuito le dichiarazioni rilasciate proprio da questo microfono due giorni fa dall'ex ministro del welfare Elsa Fornero, il tema degli esodati. Prima della nostra nuova pausa volevo salutare il nostro prossimo ospite, Angelo Moiraghi, incaricato dell'organizzazione eventi per la rete dei comitati di esodati. Moiraghi, buonasera. Sì, buonasera. Guardi, se lei vuole io posso anche chiedere scusa a tutti quelli a cui ho creato angoscia, ma io non credo di essere responsabile. Io posso andare a quelle giornate, le ripeto, sono state giornate in cui la cosa che è stata chiesta a questo ex ministro era quello di dire: bisogna fare una riforma delle pensioni. I risparmi di spesa che venivano fuori sembravano sempre insufficienti, e non sto dicendo cose così nel mondo della fantasia, perché anche le misure che poi sono state aggiunte e che non c'entrano con la riforma delle pensioni, che sono l'aver tolto indicizzazione alle pensioni salvando soltanto quelle bassissime, e già questa è stata una grossa conquista, perché all'inizio non c'era spazio neppure per salvare dal taglio dell'indicizzazione le pensioni più basse, e quando all'elenco di tutte le persone da salvaguardare io chiedo una stima agli uffici e mi viene detto 50.000, poi portate 65.000, io avrei dovuto dire: fermi tutti, io ho bisogno di 15 giorni per verificare che questa cifra è corretta. Se lei domani dovesse incontrare un esodato, che cosa gli direbbe? Guardi, io rispondo a molti di loro e in genere lo ascolterei, cercherei di spiegare perché abbiamo fatto quella riforma, e mi augurerei che sia una persona che è già stata salvaguardata, perché anche questo, io vorrei dirlo in maniera pacata, io non credo che oggi si possa parlare di emergenza. L'INPS deve fare, forse ce l'ha messa tutta per fare partire le prime 65.000 lettere, e pare, così mi hanno detto, che siano in realtà 63.000, che vuol dire che si risparmiano un po' di soldi, un po' di risorse che possono essere messe nel fondo che è stato costituito proprio per la salvaguardia. Ci sono gli altri 55.000, e io mi auguro che arriveranno presto. Ci sono i 10.000 della legge di stabilità e i 10.000 della mobilità Sacconi. In totale fanno 140.000 persone. Aver determinato una salvaguardia per 140.000 persone non può più voler dire che oggi siamo in emergenza. Quindi non c'è un'emergenza esodati in questo momento. No, c'è un processo in corso, ma non un'emergenza esodati. Equità e serietà. E allora, quello che avete sentito era di nuovo un brano, il più significativo, tratto dall'intervista che Elsa Fornero ha rilasciato martedì scorso ai microfoni di Focus Economia di Sebastiano Barisoni, appunto. Parole, quelle dell'ex ministro del welfare, che hanno fatto balzare sulla sedia per l'ennesima volta questa rete dei comitati di esodati, e che prontamente ci hanno scritto. Ma insomma, a parte tutto quello che l'ex ministro ha detto, il punto è che noi non siamo mai stati ascoltati da questo ministro, che pure ci aveva promesso più volte di chiamarci ad un confronto, e non vi dico poi tutto il resto della lettera molto accorata, molto sentita, appassionata e anche arrabbiata che Angelo Moiraghi ci ha scritto, raccontandoci anche il suo caso di esodato che, dopo aver firmato un accordo con la propria azienda per andare in mobilità ordinaria per 3 anni nel maggio del 2009, si è trovato nel giugno del 2012 a non poter invece andare a ricevere il primo trattamento pensionistico. Moiraghi, ancora buonasera. E allora, lei le scuse della Fornero non le accetta? Ma il problema non è accettare o non accettare le scuse dell'ex ministro. Intanto sono scuse tardive, avrebbe potuto farle anche sin dall'inizio. Il problema vero è inquadrare quello che lei chiama riforma, che noi invece preferiamo chiamare a metà solo riforma e l'altra metà per noi è una manovra intesa a fare cassa e basta, che noi consideriamo essere, mentre lei parla, ha sempre parlato di equità e di giustizia, noi consideriamo essere assolutamente iniqua ed ingiusta. Ma perché, al contrario di quello che da sempre ha affermato il Ministro, non è vero che tutti coloro che sono stati penalizzati dalla cosiddetta riforma previdenziale sono in qualche modo salvaguardati. Questo è sbagliato, non è vero. Non è vero che tutte le tipologie di soggetti che sono state penalizzate da questa riforma sono state salvaguardate. No, tra l'altro, per esempio, con i tre provvedimenti che sono stati presi proprio per salvaguardare gli esodati, cioè le persone che, firmando accordi precisi con aziende e sindacati, decidevano di uscire dal mondo del lavoro in attesa appunto del trattamento pensionistico, c'è proprio già un nuovo balletto di cifre fra tutti coloro che sono stati salvaguardati da questi provvedimenti, che dovrebbero aver accontentato un po' tutti, e le cifre che invece fornite voi, perché voi parlate ancora di 270.000 esodati non ancora salvaguardati? Guardi, le cifre non le abbiamo date noi. Le cifre sono state inizialmente ipotizzate da uno studio della CGIL, poi sono state in qualche modo anche confermate dall'INPS al Ministro, il quale ha addirittura minacciato il licenziamento dei vertici dell'INPS a suo tempo, perché non era d'accordo con quanto l'INPS, a fronte di uno studio che aveva fatto sulla sua base dati, dei numeri che aveva ma magari lì c'era stato un problema di ordine politico di altro genere, perché non l'avete detto prima a me che sono al Ministro, piuttosto che pubblicare questi dati, ecco, lì forse ci sa come funziona. Però sì, quelli sono i numeri, 392.000 persone, comprese nelle platee, tra quelle platee che all'interno della legge 214, della spending review e della legge di stabilità successivamente, sì, della mille proroghe, sono state in qualche modo definite dallo stesso Ministro, dalla legge in sé, no? Ora, anche all'interno di queste platee, di questi soggetti che sono stati definiti all'interno delle leggi, ci sono intere casistiche di soggetti cosiddetti esodati, cioè che erano già fuori dal mondo del lavoro nel momento in cui è entrata in vigore la riforma Fornero, che non sono state salvaguardate. Uno dei casi è il mio, una delle casistiche è quello dei soggetti in mobilità ordinaria, quindi con un accordo di mobilità, che non perfezionano i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione della mobilità. Quindi lei, ecco, per spiegare un po' meglio ai nostri ascoltatori, sarebbe dovuto andare in pensione nel giugno dello scorso anno, quando ci andrà? Mi scusi, il caso che io le ho inviato è il caso di un'altra persona. Ah beh, perché è molto simile al suo, quando me l'aveva raccontato prima. Comunque, la casistica è la stessa. Questa persona di cui ho raccontato, quindi, che avrebbe dovuto andarci a giugno dello scorso anno, ha 59 anni di età anagrafica, 2 mesi di età appunto, e quanta contribuzione? 40 anni? 40 anni. Ma i 40 anni li avrebbe raggiunti pagandosi 7 settimane di contribuzione volontaria, oltre il periodo di fruizione della mobilità. Questa persona per 7 settimane è rimasta fuori, completamente fuori da ogni deroga, quindi è una persona che dal 2012, alla faccia del fatto che non c'è l'emergenza, non c'è più l'emergenza esodati, come ha detto il nostro ex ministro, è dal 2012 che non ha reddito, non ha reddito, vive di niente. E certo, perché dovrebbe continuare a produrre un reddito, quantomeno per continuare a pagarsi questa contribuzione volontaria. Dovrebbe arrivare a 42 anni invece che i 40, a 42 anni e 7 mesi, di contribuzione previdenziale per poter maturare la pensione cosiddetta anticipata, certo, introdotta dal ministro con la nuova riforma. Ora, per potersi pagare questi 2 anni e 7-8 mesi in più di contribuzione... Dovrebbe lavorare, dice lei, produrre reddito. No, oppure farlo con la contribuzione volontaria. Certo, appunto, per pagare... O trovare un lavoro, ma trovare un lavoro oggi non lo trovano i giovani. Lei si può immaginare come può trovarlo uno a 59 anni? Moiraghi, io purtroppo devo chiudere la trasmissione fra 2 minuti, ho un altro collegamento da fare. No, lei ci ha mandato questa lettera molto bella, peraltro, molto chiara, e ci ha scritto sul finale, in un PS, leggete questa lettera, abbiate il coraggio di consegnarla all'ex ministro Fornero. Adesso sarebbe un esercizio sterile ed inutile, dovrebbe andare in mano questo documento al nuovo ministro Giovannini. Un ultimo messaggio da rivolgere al nuovo ministro del welfare e delle politiche sociali. Guardi, io vi ho mandato anche un dossier, no? Sì. Un dossier che la rete dei comitati esodati, sono 16 comitati riuniti in rete, ha scritto proprio per definire questa questione con delle proposte, che tra l'altro sono proposte che in qualche modo sono state anche già messe in una proposta di legge unitaria, di tutte le forze politiche presenti in commissione lavoro, è la 5103. Le chiedo sintesi perché sto chiudendo. Certo, presentata da Damiano insieme ad altre forze politiche, anche alla Lega nella legislatura precedente, e che verrà ripresentata. In quella legge ci sono le cose che dovrebbero fare per poter salvaguardare. Torneremo a sentirla, Moiraghi, glielo prometto. Grazie per essere stato con noi. Vado in 30 secondi da Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, per commentare i dati sulle immatricolazioni auto di aprile. Quanto è tracollato il mercato? Gianprimo, buonasera. Buonasera Debora, è tracollato del 10,83%. Un altro calo a due cifre, perfetto. Un altro calo a due cifre, sì, per poco, ma a due cifre. È un calo pesante, come è facile capire naturalmente, però è un po' meno pesante di quelli di gennaio e febbraio, mentre in marzo c'era stato un altro calo abbastanza contenuto, intorno al 5%. Prestazioni particolarmente rilevanti da segnalare per le singole case? Prestazioni particolarmente rilevanti, fa meglio in aprile, meglio del mercato, molto meglio, Kia che cresce del 16%, Toyota del 12%, Ford dell'11%, Mercedes del 6%, Renault del 4%, Audi del 2,75%, poi andiamo in territorio negativo. Bene, e Fiat per esempio fa meno 14% in aprile. Sì, fa meno 14%, cede un po' anche in quota di mercato, però nel primo quadrimestre, considerando insieme i dati appunto di questi quattro mesi, Fiat è ancora in crescita come quota di mercato. Benissimo, allora almeno una buona notizia l'abbiamo raccontata. Grazie a Gianprimo Quagliano, a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi per la collaborazione in redazione, Pietro Lacorti in assistenza tecnica. Abbiamo terminato, anche domani con voi ci sono io tutto il giorno. Abbiate pazienza, da Deborah Rosciani, buona serata. Radio 24, la passione si sente.